Capitolo 10. Anversa. 4 maggio 1538. Non lo rividi mai più. Mi giunse voce, molto tempo dopo, che era morto di peste a Basilea, alla fine di quell'anno. La gola vorrebbe stringersi ancora, ma il tempo ha annacquato anche la tristezza. E la sua famiglia? Furono accolti nella casa del confratello Jacob d'Achser. Hutt lo presero il 15 settembre, lo ricordo ancora. Confessò la sua amicizia con Münzer solo dopo essere stato torturato a lungo. Morì in modo stupido, come stupidamente aveva vissuto. Tentò la fuga, incendiando la cella in cui era rinchiuso perché le guardie accorressero ad aprirla. Nessuno lo soccorse. Morì soffocato dal fumo che lui stesso aveva provocato. Leupold, il più moderato dei confratelli, si rivelò il più duro. Non confessò né ritrattò mai. Dovettero rilasciarlo. Lo bandirono dalla città insieme alla sua fazione. Io riuscii ad aggregarmi a loro. Lasciai Augusta nel dicembre del 27 per non tornarci più. Eloy è una sagoma scura sulla sedia, oltre la grande scrivania di abete. Dove andasti allora? Ad Augusta avevo appreso che un vecchio compagno di studi viveva a Strasburgo. Martin Borchaus si chiamava, detto Cellario. Erano 5 anni che non lo vedevo e che lui non aveva mie notizie. Quando gli scrissi per chiedergli aiuto, seppe rivelarsi un vero amico. Il bicchiere è di nuovo pieno. Mi aiuterà a ricordare, o mi ubriacherà. Non ha molta importanza. Così andaste a Strasburgo? Sì, nel paradiso dei Battisti.